Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Buonasera e ben ritrovati a Radio Doc. Vi proponiamo in collaborazione con History Channel un radiodocumentario sul sale, un cristallo fondamentale per ogni tipo di vita. Si tratta di una sostanza semplice, comune ed abbondante in natura, ma anche di una risorsa preziosa che ha più di 14.000 usi diversi, dallo scongelare le strade all'addolcire l'acqua. Le miniere di sale sono state scavate nelle viscere della terra con la dinamite e giganteschi macchinari. Queste enormi cattedrali sotterranee sono usate per custodire qualsiasi cosa, dai film classici ai documenti segreti. C'è un'immensa quantità di sale sottoterra, specialmente negli Stati Uniti. Milioni di anni or sono, l'America del Nord era interamente coperta dal mare. 150 milioni di anni fa, quando i mari evaporarono, lasciarono vasti letti di sale. Poi questo sale fu coperto da strati di sedimenti. Parte di questi depositi giacciono a 550 metri sotto il lago Erie. Gli operai delle miniere di sale di Cargill a Cleveland, nell'Ohio, sono sempre occupati a scavare. Chris Gill, sovrintendente di superficie. Il sale che estraiamo oggi ha 400 milioni di anni e la nostra miniera si trova proprio sotto il lago. Come fa a non allagarsi? C'è uno strato calcareo di 360 metri tra la miniera e il fondo del lago. Sotto di esso si estende per 5 chilometri e continua sotto la città di Cleveland per 10 chilometri. La miniera di Cleveland, come ogni moderna miniera di sale, viene scavata con delle cariche di esplosivo di precisione che fanno saltare tonnellate di sale. Circa la metà del sale prodotto in America si estrae in questo modo. Gli operai che se ne occupano abbandonano la superficie e scendono velocemente nelle vaste sale sotterranee. Una rete di tunnel collega le camere scavate durante il secolo scorso. Pilastri di sale puro sostengono il soffitto di ogni stanza. Robusti sostegni naturali scongiurano il pericolo di crolli nei tunnel e rendono possibile il lavoro di centinaia di minatori che ogni giorno estraggono dalla miniera 10.000 tonnellate di sale. Un operaio che manovra una macchina chiamata Scaler inizia il lavoro. Prepara la camera per gli artificieri levando grossi pezzi di sale dal soffitto e dalle pareti. Poi, un attrezzo detto boulder inserisce dei lunghi tondini metallici nei punti strategici della volta. Questi comprimono la roccia e aiutano il soffitto a rimanere intatto quando il muro salterà in aria. Il boulder installa una decina di sbarre, ognuna capace di ancorare circa 11.000 kg. Dopo che l'operaio ha terminato di rinforzare il soffitto, un'apposita trivella prepara la parete che dovrà esplodere. La macchina fa in tutto 6 buchi, che consentiranno alla stanza di allargarsi quando esploderà. Poi gli operai effettueranno una dozzina di altri buchi più profondi, ma larghi solo 5 cm, che serviranno a contenere le cariche esplosive. Poi è la volta degli artificieri che riempiono ognuno di questi 50 buchi con nitrato di ammonio o ANFO. 16 ore di lavoro paziente adesso si concluderanno in un istante decisivo. Le pale meccaniche e tutte le altre macchine che si trovano qui sono state portate giù a pezzi e poi assemblate. Nessuna di queste apparecchiature ritornerà più in superficie. Bob Springer, addetto al trasporto. Quando un veicolo non funziona più, va a finire in un luogo che noi chiamiamo cimitero. L'attrezzatura vecchia la trasportiamo lì. Smontiamo tutte quelle parti che possiamo riutilizzare in altri macchinari. E se non c'è nulla da prendere, la abbandoniamo in questa zona. Per sempre. Lo Stemmler, lo sbriciolatore che frantuma i grandi blocchi di sale in pezzi della dimensione di una pallina, raggiungerà il cimitero soltanto tra moltissimi anni. A questo punto il sale viene trasportato da un nastro in un mulino sotterraneo, dove la lavorazione prosegue. John Groiber, sovrintendente generale della Cargill. Funziona 18 ore al giorno e trasporta 750 tonnellate all'ora. Dopo che è stato ulteriormente frantumato dallo sbriciolatore principale, il sale va negli impianti di setacciamento, dove si controllano le dimensioni del prodotto. Il sale così selezionato adesso dovrà percorrere 500 metri verso la superficie. Il nastro trasportatore arriva fin quassù, al quinto piano, dove questo sistema, chiamato tripper, distribuisce il sale nei 36 contenitori che vedete. L'operatore muove il tripper a destra o a sinistra, in avanti o indietro, e fa scendere il materiale in ognuno di questi contenitori. Poi il sale viene trasportato con i nastri nelle zone di carico. Gli operai ne metteranno 1 milione di tonnellate sui camion, 1 milione nella stiva delle navi e un altro 500.000 se ne andrà su rotaia con i treni. I vagoni aspettano che venga assegnato loro un binario. Chris Gill, sovrintendente di superficie. Il carico avviene così. Il vagone si ferma sotto il tubo e poi il materiale viene fatto cadere dentro rumorosamente. Si sente un gran tonfo. 2.000 kg di sale sono precipitati. Questo trasporto su rotaie copre le zone centrali degli stati del Midwest, l'Ohio, l'Indiana e il nord del Kentucky. E in alcuni casi arriva persino a Baltimora. La gran parte di questo sale serve a scongelare le strade ghiacciate del Midwest. Dalle 16.000 alle 70.000 tonnellate rimarranno qui per essere sparse sulle vie di Cleveland. Il sale, il generale dei cibi, come lo definì un antico scrittore, in genere si pensa sia quella cosa che si aggiunge ai cibi. Ma il sale è molto più di questo. Il 4% delle 50.000 tonnellate di sale prodotto negli Stati Uniti viene mangiato. Le proprietà chimiche del sale prevengono le otturazioni nei tubi di casa, trasformando l'acqua dura in acqua dolce. Richard Hahnemann, presidente del Salt Institute. Uno degli usi industriali che spesso non viene apprezzato è il trasferimento di ioni che addolcisce l'acqua, togliendo la durezza di certi elementi come il calcio e il magnesio. Grazie allo scambio tra gli ioni di sodio e gli ioni di magnesio e di calcio si ottiene un'acqua più dolce che, per esempio, permette la formazione della schiuma quando si fa lo shampoo. Così i capelli saranno più lucenti. Nel mondo la maggior parte del sale è utilizzata dall'industria chimica. Gli impianti di lavorazione separano i suoi elementi, cioè il sodio e il cloruro, che sono usati per fare ogni cosa, dalle materie plastiche ai detersivi, ai gas velenosi. Gli storici pensano che l'uomo primitivo abbia scoperto il sale quando imitò le greggi di animali che lo leccavano. Gli antichi romani ci danno un'idea di quanto fosse importante questo minerale. Essi infatti chiamarono una delle più importanti direttrici imperiali Via Salaria. E il rispetto che essi tributavano al sale si riflette anche nella loro lingua. Michelle Anna Jordan, autrice del libro Sale e Pepe. Prendete ad esempio la parola salario. Noterete subito qual è la sua radice. Deriva dal latino sal, sale. Infatti i soldati romani spesso erano pagati con una razione di sale, il salarium, perché se si trovavano in battaglia avevano bisogno di questo alimento. Nella storia dell'umanità noterete che il sale ha avuto sempre una simile considerazione. Il sale degli antichi fondali marini del Sahara ha alimentato in Africa un ricco commercio. I mercanti lo vendevano alle popolazioni del sud del deserto barattandolo con l'oro. Questo cosiddetto commercio silenzioso continuò anche in Etiopia. Nel 1939 il Mahatma Gandhi usò il sale nella sua lotta di liberazione dell'India dal dominio coloniale britannico. Guidò una marcia di 240.000 persone verso il mare per protestare contro la tassa sul sale e contro la legge che vietava agli indiani di produrlo. Lui e la sua gente entrarono in mare e poi ognuno uscì dall'acqua portando provocatoriamente una manciata di sale. Seguendo questo esempio, tutta la popolazione dell'India iniziò a raccogliere il sale e fu il caos totale. Tantissime persone finirono in carcere solo per aver preso il sale. Oggi il nostro rapporto con il sale è più forte che mai. Ne abbiamo bisogno fisiologicamente, almeno 3 grammi al giorno, 1,5 kg all'anno. Poiché la nostra vita dipende da questa semplice sostanza, abbiamo escogitato molti modi per procurarcela. Nel XIX secolo si sperimentò questo sistema. Venne scavato un lungo condotto fino a un giacimento sotterraneo di sale. Poi, attraverso di esso, si fece entrare l'acqua, creando così un lago molto salato. In seguito, da una seconda conduttura, fu estratta l'acqua salmastra e fatta bollire per ottenere sale puro. Richard Hahnemann, presidente del Salt Institute. Un altro sistema per ottenere il sale è l'evaporazione solare, che si ottiene raccogliendo l'acqua di mare in appositi bacini esposti al sole e lasciando che il caldo e il vento la facciano evaporare. Le chiamano coltivazioni di sale e i 1.000 ettari della Cargill coltivati a sale nella baia di San Francisco dimostrano che non solo è un metodo pittoresco, ma anche che funziona. Il sole cocente e i venti che agiscono sui bacini di acqua salmastra producono 600.000 tonnellate di sale all'anno. Il procedimento di coltivazione del sale comincia quando l'acqua di mare viene pompata in bacini di cristallizzazione da 70 ettari. Poi si deve attendere del tempo. Alcuni batteri presenti nel sale accelerano l'evaporazione. Questi organismi, insieme a milioni di minuscole piante monocellulari, conferiscono all'acqua un caratteristico colore. I biologi controllano costantemente il grado di salinità dell'acqua, che deve rimanere entro certi livelli per produrre un sale di qualità. Se l'acqua non viene monitorata, i batteri possono renderla troppo salata e un eccesso di pioggia la può diluire oltre misure. Alla fine rimane un letto di sale spesso 12-17 centimetri. Dopo che una specie di grattugia avrà frantumato lo strato dei cristalli, un'apposita macchina lo raccoglierà. Poi un nastro trasportatore caricherà il sale in grandi camion. Il lavoro di raccolta verrà ultimato in 3 mesi, prima che arrivino le piogge invernali. Radio Doc. Proseguiamo con la seconda parte del radiodocumentario dedicato al sale. La purezza scintillante di questo cristallo appare nella sua magnificenza nella celebre cappella sotterranea di Wieliczka, in Polonia. Questa famosa cappella, una delle più antiche e belle della Polonia, è strapiena di preziose reliquie, di bellissime sculture e di stravaganti opere d'arte. Ma c'è qualcosa di strano qui. Qualcosa che rende questo posto unico. La cappella di Kinga si trova a 90 metri sotto la superficie terrestre, scavata in una miniera medievale di sale. Tutto qui sotto, dai muri al pavimento, ai magnifici lampadari, all'altare, alle opere d'arte e a qualsiasi tipo di manufatto, è stato scolpito nel sale puro dai minatori nel corso dei secoli. I turisti possono ammirare bellissime figure e bassorilievi. Patricia Karbinska, guida della miniera di sale. Sono stati i minatori a realizzare queste decorazioni. Lavorava un solo minatore alla volta. Quando aveva finito, un altro continuava l'opera e dopo di lui un altro ancora. Ci vollero 76 anni per scolpire tutte le figure a rilievo della cappella. La miniera di sale di Wieliczka risale al Medioevo e scende fino a 330 metri al di sotto della superficie terrestre. Più di 200 chilometri di tunnel collegano 2040 camere sotterranee tra loro. In 700 anni i minatori hanno estratto dal suolo più di 50 milioni di tonnellate di sale. A partire dal XVII secolo i turisti hanno affollato questo mondo nascosto per visitare i suoi bacini sotterranei, gli intricati collegamenti strutturali e per ammirare le opere d'arte di sale. In quanto patrimonio culturale dell'umanità, le Nazioni Unite hanno incluso questa miniera di sale nel proprio elenco di tesori da salvare. Qui dentro sono conservati il lavoro di migliaia di minatori e secoli della nostra storia. Credo che questo luogo sia molto importante, non solo per i polacchi, ma anche per le persone di tutto il mondo. I depositi di sale che si trovano sotto la città di Wieliczka sono ciò che rimane di un mare primordiale del Miocene, che è evaporato 20 milioni di anni fa. Gli abitanti del luogo iniziarono a estrarre il sale dalla miniera nel XIII secolo avanti Cristo. La storia di come sia nata la miniera di Wieliczka è avvolta nella leggenda. Il mito narra che la principessa Kinga, una principessa ungherese, sposò un principe polacco e decise di fargli un dono gettando il suo anello di fidanzamento in una miniera di sale. In Ungheria questo voleva dire che gliela regalava. Quando venne in Polonia, ordinò ai minatori polacchi di iniziare a scavare sotto la nostra città. Lo fecero e trovarono il sale, e nel primo blocco rinvenuto c'era il suo anello. Il sale aveva viaggiato sottoterra seguendo Kinga fino al paese di suo marito. Questa è la leggenda. Nel Medioevo le condizioni lavorative dei minatori erano molto dure, specialmente per i primi minatori di Wieliczka. Nel XIV secolo a Wieliczka iniziarono a lavorare dei minatori liberi, ma non era certo facile. Usando degli attrezzi di legno e ferro, 3 minatori impiegavano quasi un mese per scavare 3 metri di tunnel. Molti operai passavano una vita intera a togliere sale da una stessa camera. Quando la miniera diventò più profonda, si dovette risolvere il problema del trasporto di operai sottoterra e di sale in superficie. Alexander Garlicky, professore dell'Accademia di Estrazione e Metallurgia. È il più antico sistema di montacarichi della miniera di sale di Wieliczka. Funzionava con 8 cavalli, aggiogati 2 a 2, che facevano girare questo argano in entrambe le direzioni, in senso orario oppure in senso antiorario. Questo congegno era collegato a 2 pulegge di legno con delle corde molto grosse. Le funi, grazie a massicce carrucole di legno, potevano far salire dalla miniera blocchi di sale da 2 tonnellate. Tutto questo accadeva molto tempo fa ed è sorprendente quanto fossero state intelligenti le persone dell'epoca a progettare, realizzare e ad operare congegni simili fatti per la maggior parte di legno. Come ogni miniera di sale del Medioevo, Wieliczka era piena di pericoli. Durante le fasi di scavo il rischio maggiore era costituito dal gas metano esplosivo. Esso si accumulava nelle fenditure del soffitto. I minatori più a rischio erano i cosiddetti penitenti, che usavano delle lunghe torce per bruciare le sacche di gas. Avevano questo soprannome perché, avanzando carponi sulla roccia, sembrava che invocassero Dio. Le insidie di Wieliczka convinsero i minatori a realizzare le immagini religiose e le cappelle che ornano il sottosuolo. Dal 1689 iniziarono le messe quotidiane per chiedere protezione al santo patrono della miniera. La Cappella Santa di Kinga è la più grande delle 3 cappelle che si trovano sottoterra. È lunga 54 metri, larga 18 e alta 15. Un esempio di religiosità e di capolavoro artistico unici al mondo. Patricia Karbinska, guida della miniera di sale. Il pavimento è davvero bellissimo. Sembra fatto di marmo. Invece è di sale puro e con l'andare del tempo è stato levigato dai visitatori. E non solo il pavimento è di sale, ma anche le pareti, ogni oggetto, tutte le statue e tutti i bassorilievi. I lampadari della Cappella Santa di Kinga sono carichi di cristalli provenienti sempre dalla nostra miniera. Ci sono 2 stanze sotterranee piene di cristalli grandissimi, molto simmetrici, ragion per cui i minatori decisero di decorare con essi gli immensi lampadari. I cristalli sono traslucidi e quindi emanano una luce molto bella. Bellezze di altro genere si nascondono a Wieliczka in settori vietati ai turisti. Straordinari capolavori di sale opera della natura, non dell'uomo. In varie parti del mondo la natura ha modellato il sale come un artista che lavora la creta. Il lago Mono, nella California del Sud, ha delle caratteristiche torri di sale. Alcune raggiungono l'altezza di 9 metri e risalgono a 900 anni fa. In Bolivia, sul famoso altoplano, la maggiore pianura elevata delle Ande, si trova la bianca distesa di Uyuni, il più immenso letto di sale esistente al mondo. Lo strato di sale è spesso più di 9 metri e ha l'incredibile peso di 64 miliardi di tonnellate. Ma alcune tra le più affascinanti formazioni naturali si celano nella miniera di sale polacca di Wieliczka, al termine di angusti e oscuri cunicoli vietati ai turisti. Ci piacerebbe far vedere altre zone della miniera al pubblico. Purtroppo è pericoloso. Nel sottosuolo c'è il rischio del monossido di carbonio e del metano. Alcuni passaggi sono molto stretti e in futuro rischiano di crollare. Quindi purtroppo la vera miniera oggi è per forza di cose interdetta ai visitatori. La miniera vera e propria è un ambiente assolutamente affascinante che contiene formazioni di sale di ogni tipo. Camere stranamente ondulate come questa, un tempo erano piene di acqua da cima a fondo. L'acqua venne fatta defluire e il sale col tempo si cristallizzò, lasciando un desolato paesaggio lunare. A Wieliczka, oltre ad avere delle visioni inaspettate, si possono udire dei suoni altrettanto inattesi. Spesso i nostri visitatori rimangono veramente sorpresi quando si trovano nei corridoi della miniera e all'improvviso sentono arrivare la musica. La banda di Wieliczka ha una tradizione molto antica ed è composta quasi esclusivamente da minatori in servizio o in pensione. L'acustica in questa camera sotterranea è meravigliosa, per cui spesso gli strumentisti suonano qui, nel secondo livello. La banda della miniera di sale di Wieliczka fu fondata nel 1830. Ha intrattenuto i visitatori per quasi 2 secoli. Ci fu un periodo d'oro per il turismo nella miniera. Re e sudditi un tempo affollavano questo luogo per danzare in enormi stanze e cenare in saloni da banchetto ricavati nel minerale puro. Gli ospiti reali potevano fare un giro della miniera a bordo di un elegante e comodo trenino. I visitatori potevano anche esplorare le meraviglie di Wieliczka con un battello che navigava su laghi di acqua salata e lungo un sistema di canali. Meno di un secolo fa, i responsabili della miniera vietarono la navigazione dopo che tre svizzeri si capovolsero con le loro canoe e affogarono nell'acqua salata. Nessuno si avventurava nella miniera di Wieliczka volontariamente. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale i nazisti rinchiusero qui degli ebrei. I tedeschi volevano trasformare questa gigantesca camera in una fabbrica per la costruzione di parti di aereo. La guerra finì prima che la produzione iniziasse, ma i nazisti fecero in tempo a portare fuori dalla miniera 2000 ebrei e a deportarli in un campo di concentramento in Cecoslovacchia. Una stella di David, incisa dai minatori dopo la guerra, ricorda questi prigionieri. Oggi, questo mondo sotterraneo unico e ricchissimo di storia rischia di scomparire definitivamente. I 9 livelli della miniera sono sorretti da pilastri e tronchi che combattono una battaglia persa contro l'immenso peso della terra. Le inesorabili infiltrazioni d'acqua mettono in serio pericolo la miniera. Nel 1992, a 176 metri di profondità, un'inondazione allagò il quarto livello che tuttora è rimasto inaccessibile. Sopra, nel paese di Wieliczka, ricorrenti voragini ricordano agli abitanti che stanno vivendo sopra un terreno non sicuro. Patricia Karbinska. 7 anni fa una parte dei binari è sprofondata per un allagamento nella miniera e da allora non abbiamo più avuto una stazione ferroviaria al centro della città. Il treno non ci può più arrivare. Quasi ogni persona che vive a Wieliczka ha sotto la sua casa una camera o un corridoio sotterranei. Tutti rischiamo di svegliarci un giorno o l'altro nella miniera. Non soltanto la struttura della miniera è minacciata, ma anche la sua unica collezione d'arte. L'umidità, specialmente vicino ai pozzi di ventilazione, ha eroso alcune sculture di sale di Wieliczka che si sono letteralmente sciolte. Se da un lato la miniera soffre, dall'altro cura pazienti di tutta Europa affetti da malattie respiratorie, che vengono qui per l'aria salmastra. Di tutte le cose che si possono vedere a Wieliczka, questa è sicuramente la più strana. Un sanatorio con 80 posti letto al quinto livello, cioè 200 metri sottoterra. Ospitiamo moltissime persone affette da asma, bronchiti e allergie. Stanno qui sotto e respirano. Per loro è molto salutare trascorrere un po' di tempo nel sottosuolo, perché una miniera di sale è un ambiente molto sano. È pressoché privo di batteri e i funghi sono completamente assenti. Vi segnaliamo che la versione integrale di questo documentario andrà in onda domenica 8 marzo alle 6. Un ringraziamento in redazione a Daniele Casagrande. Radio Doc vi dà appuntamento a domenica prossima. Buonanotte.